Graziano! Dimmi! Beh, ci sei! Dove è accesa qua sul tavolo? Non c'è nessuno! C'è da 26 mezz'ora, cultore! Dici, va a sentire oggi pure, invece non è acceso! Siamo cultore alle 27! Sto passando a chiamarti! No, tanto stavo facendo cosa, dopo mi devo a sentire un buco! Dunque non ne ho messo a far quello, ma anche un velegosa. Vabbè, lui se ne si sente, va, ci sentiamo allora. Saluta a tutti, ok? Attenta, cuffetta.